Da sportivo sono contentissimo che comunque una realtà, il calcio vada bene perché comunque porta lustro alla città e comunque è sport, e mi va bene. Certo noi come altro sport, come si sa si definiscono sempre minori tutti gli sport che non sono calcio, soffriamo di questa situazione perché il calcio a livello di visibilità, di interessi, di qualsiasi cosa, mangia tutto, sbrana il resto. E quindi nonostante noi sono 10 anni che... Sono orgoglioso di dirlo, portiamo il nome di Novara in giro per l'Italia e per l'Europa, avendo fatto Coppe Campioni, Coppe CEV, avendole vinte, finali scudette e così, ci troviamo improvvisamente un pochino messi così nell'angolo, però noi teniamo duro e riporteremo ancora entusiasmo su sport che non siano calcio.